Eccoci ben ritrovati alla Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. Franco D'Assisti in studio per raccontarvi le novità al cinema e quelle in DVD dopo la buffata di 7 giorni fa con 8 nuovi film nei nostri cinema. Questo weekend la proposta è più ridotta, prima della bagarre delle uscite del 19 dicembre. 3 film in uscita nazionale, uno che vogliamo raccontarvi che parte da Milano e Monza in questi giorni per girare poi tutto lo stivale. Si tratta di Diari di Attilio Azzola, che sarà nostro ospite. Il film che marchia il weekend è senza dubbio Come Dio Comanda di Gabriele Salvatores, fra pochi minuti qui alla Rosa Purpurea, ma c'è anche La convivenza cercata e mai trovata fra israeliani e palestinesi del Giardino di Limoni, con gli occhi dell'intensa Hiyama Bash già nelle sale nel bellissimo L'ospite inatteso, e il colossal Ultimatum alla Terra con Keanu Reeves, remake del mitico e omonimo film di Robert Wise del 51. Allora, buio in sala ed entriamo nel clima cinematografico del weekend con il nostro audio sommario. Certe notti non riesco a dormire. Mi spaventa che il tempo passi senza lasciare traccia. Così mi alzo e scrivo tutto. Momenti belli, momenti brutti. Attenzione, per favore! Procedete direttamente verso la caserma dall'altra parte del cortile. Lasciate qui cellulari, fotocamere e videocamere. Helen, era importante averti in squadra. Non aver paura. Paura di cosa? Che state facendo? Chi vi ha fatto entrare nel mio frutteto? Perché cogliete i miei limoni? Fuori di qui! Fuori, ho detto, lasciateli quelli! Fermo, ridami i limoni! Ehi, vattene a casa. Non hai il permesso di entrare qui. Vattene, o ti arrestiamo. Papà? Sono io. Sono Cristiano. Mannaggia la puttana, le cose che ci diciamo non le dividono a nessuno! Se ci dividono io. Il film dal quale vogliamo partire è Il Giardino di Limoni. Come dicevamo in apertura, la convivenza apparentemente impossibile fra arabi e israeliani è al centro di molti film degli ultimi anni. Pensate alla Banda, ma anche a Sotto le bombe, solo per citarne un paio. In entrambi quei casi il ruolo centrale di saggezza, pacificazione, spessore umano del film era sostenuto da una donna. Succede anche nel Giardino di Limoni. L'ho visto per noi, Chiara Pizzimenti. Sono venuta qui perché ho ricevuto queste lettere. È scritta in ebraico e sai che non so leggerlo, ma mi sembra che sia una cosa importante. Non solo è importante, ma cambierà radicalmente la vita della vedova palestinese Salma Zidan. La manda il comandante israeliano della regione centrale e dice questo. Ti informano che taglieranno i tuoi alberi di limoni, perché quegli alberi costituiscono una seria minaccia alla sicurezza del ministro della difesa che abita di fronte a te. Perché piangi? Non sai quanta terra ci hanno requisito per costruire le prigioni per noi? Agli occhi degli altri è poca cosa, ma per Salma, rimasta sola dopo la morte del marito e con i 3 figli ormai cresciuti, rappresenta un'intera esistenza. Decide così di rivolgersi a un avvocato. Il frutteto è la mia unica risorsa. Però le hanno offerto un risarcimento, questo lo sa, no? Ma era della mia famiglia, l'ho ereditato da mio padre. Nessuna cifra può risarcire una cosa del genere. Senta, possiamo fare ricorso al tribunale militare israeliano. L'azione legale non è semplice e comincia con una sconfitta. La corte respinge il ricorso e ordina che lo sradicamento degli alberi venga effettuato al più presto, facendo divieto alla signora Zidan di entrare nel frutteto. Salma però non si arrende fino ad arrivare alla Corte Suprema e ai media. Signora Zidan, che cosa si aspetta? La giustizia si deve compiere. Se vinciamo noi, vince l'intera nazione palestinese. Se perdiamo, è una perdita per tutti. C'è anche nella vostra Bibbia. Davide ha affrontato Golia e ha vinto. Fin qui la storia, diciamo, giudiziaria, ma il film non è solo questo. Quello fra Salma e il suo avvocato è un rapporto che supera le normali consuetudini legale cliente. Lei torna a pensare all'amore, ma la società glielo nega. E ancora, c'è un'altra donna, una donna che è vicina e insieme lontanissima, la moglie del ministro israeliano, che vive a pochi metri da Salma e che ne comprende la situazione, capisce l'ingiustizia e arriva a denunciarla, ma alla fine non può fare nulla, tanto è profondo l'abisso che separa i loro 2 mondi. Una storia che mette di fronte alla realtà israelo-palestinese, un'altra delle tante storie del genere, qualcuno potrebbe dire, ricordando anche solo il recente La Banda. Ma se il tema di fondo è lo stesso, questi racconti non appaiono come ripetizioni, quanto piuttosto come aggiunte, ulteriori prove della follia politica, storica e geografica della situazione fra Israele e Palestina. 3.000 anni e nessuno ha trovato una soluzione, si dice a un certo punto, a questa come alle questioni più grandi. Il regista è Eran Riklis, già autore della Sposa siriana, e da quel film arriva anche l'interprete principale, Yam Abbas, qui donna di mezza età ancora piacente che lotta per i suoi diritti. Ancora una volta una donna a raccontare il difficile Medio Oriente da un punto di vista piccolo e personale, che sale però all'universalità. Gli alberi in fondo sono come le persone e si soffre per i bei limoni di Salma, si soffre perché il finale del tutto lieto è solo di certi film americani. Lo sai che mio padre tanti anni fa mi portava sempre con sé in Israele a vendere limoni al mercato. Il giardino di limoni, la nostra prima proposta del weekend, quasi una coda del carro di quel cinema di qualità arrivato nelle nostre sale abbondante 7 giorni fa. E ora spazio alla classifica del botteghino. La scorsa settimana niente film di cassetta. Ne avranno approfittato i vampiri di Twilight? Ce lo svela Daniela Faggion nella Screen Parade. Per fare a meno di te. Botteghino ancora vampirizzato e mentre Twilight mette a segno il terzo incasso della stagione, sale al quinto posto Solo un padre di Luca Lucini. Settimo la settimana scorsa, il film con Luca Argentero incassa altri 460.000 euro e arriva a 1.300.000. È una delle poche cose che voi uomini riuscite ancora a fare da soli. Più di 560.000 euro alla terza settimana in sala, Nessuna verità supera i 3.670.000 euro, perde però una posizione ed è quarto. Scende sul terzo gradino del podio Il cagnolino Bolt, poco sotto il milione sui 3 giorni e sopra i 3.150.000 complessivi. La star a 4 zampe è introvabile. Debutta al secondo posto L'orrore enigmistico di Saw 5, che tra una tortura moralizzatrice e l'altra incassa in 3 giorni poco più di 1.000.000. Non dobbiamo prendere la chiave. Ma sei stupida! E di nuovo al primo posto con quasi 1.200.000 euro svolazzano i maciati vampiri emo di Twilight, che azzannano un bottino complessivo di oltre 9.500.000. Il miglior risultato per sala è però di un film distribuito in appena 23 copie, L'ospite inatteso, che ha messo a segno una media di ben 4.148 euro. So che sei un uomo molto intelligente, ma col tamburo devi ricordarti di non pensare. Pensare incasina tutto, chiaro? Buoni risultati quindi al botteghino per L'ospite inatteso, ma buona media per sala anche per Stella, un altro dei nostri consigli della settimana scorsa, distribuito in 10 città da Sucker Film. A questo proposito salutiamo con soddisfazione la rimozione dell'incredibile divieto ai minori di 14 anni da parte della commissione d'appello della censura. Ora il film lo possono vedere tutti, soprattutto quegli adolescenti con cui la pellicola cerca di instaurare un dialogo. She was me, and if there's somebody calling me on, she's the one. Seconda parte della Rosa Purpurea, che si apre sulle note di She's the One di Robbie Williams, canzone pop, guida sonora del film di Gabriele Salvatores Come Dio Comanda. She's the one. 3 anni dopo Coa This Baby, il regista Oscar per Mediterraneo, l'innovatore della commedia On the Road negli anni Ottanta, compie un altro passo deciso nel suo percorso noir e nel rapporto con i personaggi inventati dalla penna di Niccolò Ammaniti, cominciato con Io non ho paura. Ancora una volta protagonisti un padre e un figlio in un simbiotico rapporto d'amore, stretto, a tratti violento, reciprocamente protettivo come quello di un lupo con il suo cucciolo. Conosciamoli quindi questi personaggi. Papà Rino, Filippo Timi, un lavoro precario, una stamberga come casa, un malinteso senso della giustizia e della patria che sfocia nel neonazismo. E Cristiano, suo figlio, scuole medie, una testa piena dei concetti estremi e violenti del papà. Cristiano torna a casa la sera tardi, ha fatto a botte, anzi per la precisione è stato menato, da un ragazzo più grande, Alex, geloso delle attenzioni e della tenerezza che la sua fidanzata Fabiana dimostra proprio per Cristiano. È esemplificativa questa clip che stiamo per farvi ascoltare, perché papà Filippo Timi non si arrabbia perché il figlio ha fatto a botte, ma perché le ha prese. Ascoltiamo. Cos'hai fatto? Ho fatto a botte. E tu? Gli hai fatto male? Non gli hai fatto un cazzo? Non sei capace di difenderti. Mio figlio non sa difendersi. È tutta colpa mia. Sono un imbecille. Papà, quello è un campione di karate. Ha vinto i regionali. Ah, perché tu ancora credi alla favola che chi fa le arti marziali sa fare a botte. Ma tu lo sai che ci vuole per fare a botte? La cattiveria ci vuole. Unico estraneo ammesso nel branco è Quattro Formaggi, un bravissimo Elio Germano, ex collega di Rino, ormai inutile scemo del villaggio dopo essere rimasto letteralmente folgorato da una scossa elettrica sul lavoro. Quattro Formaggi passa le giornate per strada al seguito del suo capobranco e dorme in un capannone dove allestisce giorno per giorno uno strano presepe con pezzi recuperati in discarica. Avete visto che bella sorpresa che ci ha fatto nostro signore? La neve, tutti surgelati. La strada è completamente bloccata. Sarà un dramma, che non vi svegliamo ovviamente per rispettare le tinte giallo-nere del film, a gettare nuova luce sui tre personaggi principali e sui loro rapporti. Chi era protetto diventa protettore, chi era amico tradisce e forse nella corazza di Rino si apre per una volta una crepa che ha il sapore della speranza. Sentiamo il regista, Gabriele Salvatores. Qui ci sono due possibilità, due cose a cui aggrapparsi per poi ripartire. Uno è questo ragazzo, l'amore che c'è tra questo ragazzo e questo padre, che comunque, anche se sono personaggi difficili, scorretti, magari personaggi che non vorremmo mai incontrare, comunque il loro amore è molto forte, io glielo invidio. Vorrei avere la capacità di coinvolgimento che ha Rino con suo figlio. E dall'altra parte, prima parlavo di una crepa, c'è una canzone di Leonard Cohen che dice: ogni cosa ha una crepa perché così la luce possa entrare. Bene, questo amore di cui parlavo è proprio la crepa nella corazza di Rino. Il finale, nel finale secondo me quella lacrima sul viso del padre che capisce che ha fatto del male a suo figlio in qualche modo, che gli ha, è come davvero un raggio di sole. Il film si chiama Come Dio Comanda, Dio non appare nel film, appare anche poco nella realtà delle volte, ma se si facesse sentire un po' di più ogni tanto sarebbe meglio, però lo chiamano tutti i personaggi ma lui non c'è, ma in quel finale, in quel momento un po' di Dio e un po' di luce c'è secondo me. Come Dio Comanda è una storia cupa, a tratti morbosa, girata in maniera strepitosa dal regista napoletano di nascita e milanese d'adozione, forse la sua miglior prova, con la macchina da presa costantemente a spalle, con una fotografia davvero eccezionale. Un film dove lo spettatore non riesce a riconoscersi in nessuno dei personaggi, al limite guarda con commozione al tentativo di Cristiano di proteggere il padre dai pericoli del mondo, ma non c'è mai simbiosi con uno dei personaggi sullo schermo. C'è sempre un margine di rischio quando si mettono in scena personaggi così, con i quali il pubblico non può empatizzare. Ancora Salvatores. La scommessa è un po' questa, provare a guardare in faccia quelli che ci fanno paura, perché questi tre personaggi hanno paura del mondo che li circonda, sono violenti per questo, ma la cosa ridicola è che il mondo che li circonda siamo noi e noi abbiamo paura di loro. Quindi c'è qualcosa che non va, guardiamoci in faccia e cerchiamo di capire che la paura è creata solo dall'esterno per tenerci belli tranquilli a casa. Ma il vero olio che fa girare il motore del film è il cast. I personaggi offerti dal film di Salvatores sono di quelli che non capitano molto spesso nel cinema italiano. Filippo Timi ed Elio Germano hanno colto al balzo l'occasione. Sentiamoli. Ho provato a mettere in comunione le mie ferite con le ferite del personaggio. Io essenzialmente sono una persona buona, cosa che detesto da quando ho 13 anni, e quindi interpretare finalmente una persona invece che ha il coraggio e la libertà di essere cattivo, cioè di prendersela col mondo, di usare il proprio corpo come arma, è stato piuttosto catartico, e questo mi ha anche insegnato un po' da qualche parte un coraggio, premettendo che non sono per niente d'accordo con quello che Rino dice, esprime, però sono d'accordissimo con la sua generosità di nell'amare suo figlio. Il personaggio è forse il più bello con il quale mi sono mai confrontato e ho deciso di rappresentarlo in una maniera comunque non convenzionale. Porta avanti un mio percorso di ricerca sul mio mestiere, ecco, non ho cercato una via comoda, anzi abbiamo, come dire, ho cercato di farlo il più sbagliato possibile, il più mi interessava in questo caso, visto che il personaggio me ne dava la possibilità, e non capita mai un personaggio del genere, di tornare un po' alla mia passione, che è quella poi del teatro, che è della costruzione di un personaggio veramente che parte dalla propria necessità e parte dall'interno, no? Non da limitare qualcos'altro, ecco. Abbiamo parlato di Come Dio Comanda, il ritorno di Gabriele Salvatores nelle sale cinematografiche italiane, una delle proposte davvero alternative di questo Natale di qualità 2008. A questo punto noi siamo arrivati al primo appuntamento con il DVD Game di questa settimana. Alcuni ascoltatori che ci scrivono, partecipano, ci dicono: il film è questo e ora cosa devo fare? Ve lo ripetiamo, ogni settimana vi facciamo ascoltare tre tracce di un film misterioso per 7 giorni almeno. Se lo indovinate, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it indicando anche il vostro indirizzo privato, eventualmente, perché il più bravo, il più veloce, chi indovinerà per primo il sabato e la domenica, riceverà a casa una copia del DVD. E andiamo a giocare insieme. Le feste per l'affitto erano la cosa migliore negli anni 20 e 30, un vero sbatto. Se non avevi i soldi per pagarti l'affitto, invitavi un po' di musicisti, facevi pagare da bere e il problema era risolto. Chiunque metteva qualcosa nel cestino delle offerte, un dollaro, quello che potevano. Secondo Jerry, lei non è mai stata a una festa per l'affitto, signor Fletcher. Quando mai? Non l'ho mai detto. Ah, non ne saltavo una di quelle feste. Era lì che incontravo le ragazze. Se avete già capito di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it. Fra poco La Rosa Purpurea continueremo a parlare dei film in uscita nelle sale italiane, però a questo punto apriamo una parentesi su un genere che negli ultimi anni ha trovato una nuova vitalità. Stiamo parlando del documentario, che sia da questa parte dell'oceano, ovvero in Europa e anche in Italia, sia dall'altra parte, per esempio con i colpi di maglio dei documentari di Michael Moore, ha avuto sicuramente negli ultimi 5-6 anni una nuova vita, un nuovo interesse e da parte degli spettatori e da parte anche di chi il cinema lo produce. Forse anche i film di finzione si sono fatti sempre un po' più documentari, nel senso che trattano la realtà con una presa più diretta, ma si continuano anche a fare film che raccontano quello che ci circonda. Noi vogliamo fare un po' in punto su questo tipo di produzione con Federico Schiavi, che è il presidente di DocIt, Associazione dei Documentaristi Italiani, perché a Palermo, proprio in questi giorni, si stanno concludendo gli stati generali del documentario, che fanno un po' il punto della situazione. Allora, io saluto in collegamento Federico Schiavi. Ciao Federico. Un saluto. Allora Federico, come sta il documentario in Italia? Il documentario in Italia sta bene da un punto di vista creativo, nel senso che, come accennavi tu, è una fase di grande vitalità. Da un punto di vista di visibilità, purtroppo va detto che l'Italia è un territorio difficile, tanto che molti lavori di buon livello italiani sono più facili da vedere all'estero che in Italia. Sono attivi dei canali tematici sulla piattaforma di Sky in questo momento, che sono dei referenti importanti per il documentario. Certamente, se dovessimo focalizzare un problema in termini di diffusione del documentario, mi sembra che la questione sia più legata alla TV di Stato. Però stiamo parlando sempre di televisione, come se i documentari dovessero finire solo lì. Io direi che il primo problema è l'accesso dei documentari italiani alle sale italiane, più che l'accesso dei documentari alle sale, perché la questione in Italia, e credo che non riguardi solo il documentario, penso di poter parlare anche riferendomi in generale al cinema d'autore italiano, lo spazio nelle sale è uno spazio piuttosto limitato. E allora quali sono, Federico, le vostre proposte per migliorare questa diffusione sul grande schermo? Assolutamente è necessario che a livello di distribuzione, a livello di sale, ci sia una tutela del prodotto d'autore. Questa tutela è la tutela da forme anche velate di dumping che di fatto avvengono, e su questo certamente sia a livello istituzionale che a livello commerciale ci sarebbe da fare un ragionamento. Grazie a Federico Schiavi, presidente di DocIt, per averci raccontato il momento di salute del documentario italiano dagli stati generali del documentario di Palermo. Grazie a voi. Com'eri prima di diventare così? Vi sareste spaventati. Sono gli alieni invasori ad aprire la terza parte della Rosa Purpurea. Arrivano dallo spazio profondo, atterrano sul nostro pianeta, esattamente a Central Park, fanno fuoriuscire dall'astronave un loro ambasciatore, Belloccio, che avrà il compito di depurare il pianeta azzurro dagli umani, artefici della sua distruzione, ma cambierà idea per amore di una affascinante scienziata. Questi gli ingredienti di Ultimatum alla Terra. Perché è sul nostro pianeta. Il pianeta è vostro. Devo sapere che cosa succede. Questo pianeta sta morendo. È la razza umana che lo sta uccidendo. Voi non ci conoscete. La decisione è presa. Tu potresti fermare tutto. La procedura è cominciata. Il terzetto, scienziata, figlioletto e alieno, quasi un pack, cercherà di invertire la tendenza, ma la distruzione è ormai in atto attraverso uno sciame di voracissimi mini insetti metallici che divorano e polverizzano tutto, compreso il Giant Stadium. Tutto già scritto nel 1951 da Robert Wise, un maestro del genere, anzi dei generi, il melò come il musical, come la fantascienza, per cui firmò anche il primo Star Trek. Ma purtroppo anche tutto già visto. Ultimatum alla Terra è un remake un po' stanco e un po' superficiale. Sembra un compitino fatto senza molto impegno. La storia ricalca passo passo quella dell'originale, ovviamente con effetti speciali aggiornati e super tecnologici. I dialoghi sono didascalici e Keanu Reeves non gli fa certo guadagnare espressività. L'adattamento italiano inciampa addirittura in un congiuntivo sbagliato, davvero troppo per una produzione miliardaria. Ho rivisto nei giorni scorsi l'originale del 51, effetti speciali artigianali, mostri avvolti in tutone che sembrano pigiami, ma tutta un'altra poetica, tutt'altra regia, tutt'altro ritmo, asciutto quanto questo remake è svaporato. E siccome di ultimi giorni sulla Terra ne abbiamo già visti molti, anche di recente, c'era proprio bisogno di farlo questo remake. Ovviamente pensa di sì il regista Scott Derrickson. I think that if you were going to remake a classic film, penso che quando si fa il remake di un classico bisogna avere un buon motivo per farlo. La mia prima motivazione è che non ci sono molte persone che vadano al cinema oggi che abbiano visto l'originale. E poi ho apprezzato una scelta che era già nella sceneggiatura quando mi è stata proposta. Il fatto che la storia sia stata ambientata ai giorni nostri utilizzando il problema ecologico che è assolutamente contemporaneo. La vera ragione per rifare il film era raccontare la storia con i temi del nostro tempo. The new issues of our time. E sul paragone con il film di Robert Wise così si esprime il protagonista Keanu Reeves. Avevo visto il film da ragazzo prima di iniziare a girare questo comunque e prima di incontrare il regista, l'ho rivisto più volte. La nostra versione della storia, soprattutto per quanto riguarda il mio personaggio, è diversa. Alla fine, riflettendo, mi pare che abbiamo compiuto un'inversione. Intendo dire, nell'originale l'alieno arriva sulla Terra e si comporta in modo affabile, ma alla fine del film compare un ghigno. Noi abbiamo fatto il contrario. Quando riparte, è più umano degli umani. E il signor Matrix crede agli alieni? Do I believe in aliens? Sure. Credo negli alieni? Certo, non credo possibile che in tutto l'universo ci sia solo l'uomo ad aver raggiunto questo grado di sviluppo. È incredibile. Per quanto riguarda gli UFO invece, beh, ho amici che dicono di averli visti, quindi perché no? I don't know, I've had some friends who have had experiences with UFOs, so I say sure. Ed eccoci arrivati alla seconda traccia del DVD game di oggi. Mike, riporta qui quella scheda. Posso far entrare al negozio? Mike, ora tu scavalchi questa fai. Il signor Fletcher si è fidato di me. Il signor Fletcher non ti sgriderà, lo sai che è uno rilassato. Lo so che non mi sgriderà, questa è una parte del problema. Lui è molto buono con me e io non lo voglio deludere. Non posso, ma io ormai non ti servo, ci sei quasi, devo andare. Non ti parlerò più, non ti parlerò mai più. Avete indovinato di che film si tratta? La Rosa Purpurea, @radio24.it per provare a vincere il DVD proprio di questo film. Ed eccoci ad affrontare l'ultima proposta cinematografica di questo fine settimana. Ed è una proposta a cui ci piace dare spazio. Il film è già in circolazione in maniera, se vogliamo, non massiccia da qualche giorno. Stiamo parlando di un film che si intitola Diari. Lo ha diretto Attilio Azzola, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Attilio. Buonasera a tutti. Dicevamo, è uno di quei tentativi in cui il cinema italiano, con pochi mezzi magari, cerca di dire qualcosa e magari di dirlo in maniera alternativa rispetto al modus imperante. E, tra l'altro, l'avventura del tuo film è partita dal Cinema Mexico di Milano e, se non sbaglio, anche da Monza, dove il film è tra l'altro girato e ambientato, un po' come fece l'anno scorso Il vento fa il suo giro di Giorgio Di Ritti, che poi diventò un caso. Allora, Diari è un film sull'adolescenza. Io voglio citare quello che ha scritto l'amico e collega Giancarlo Zappoli su My Movies. È un film che vuole dimostrare che non tutti i giovani vedono albecchiare tre metri sopra il cielo. Ecco, mi è sembrata una dicitura azzeccata, perché è un film che ci regala il disegno e l'immagine di una realtà adolescenziale italiana lontana da questi stereotipi di sballo a tutti i costi o di banale vuotezza. Qui ci sono ragazzi che vivono il loro tempo, assolutamente, che si incontrano, sono come tutti i ragazzi che vediamo, ma che hanno un fondamento di valori davvero importante. Sì, il problema su da che punto di vista affrontare il mondo adolescenza è grosso, perché a volte ti sembra quasi che tu debba aggiungere qualcosa in più, no? Quindi dici, non so cosa ci metto qualcosa di scandalistico. Poi in realtà la verità è che la vita in quel periodo, appunto l'esistenza in quel periodo della vita è già così intensa e così tormentata e conflittuale che di per sé, secondo me, dà spunti molto ricchi per narrare qualcosa. Ecco, allora cominciamo a conoscere un po' questi personaggi. Principali sono due adolescenti che poi si incontreranno nel terzo episodio. Il film ha una struttura in tre parti. Nel terzo, diciamo, episodio si incontreranno al servizio, se vogliamo, di un uomo anziano in cerca di un amore scomparso. Ma andiamo con ordine. La sedicenne Leonora. Ascoltiamola in questo passaggio. Ma come fai ad ascoltare gli SDC? Sono troppo vecchi. Ma se tu mi ascolti Jim Morrison, dai. Lui è figo. Ma cosa vuol dire? Fosse vivo oggi sarebbe vecchio e decrepito. Vabbè, cosa fai? Vai a casa o mangiamo insieme? No, devo pensare con mia madre. Allora, Attilio, chi è Leonora? Leonora è questa fanciulla di 16 anni che all'inizio del film vediamo vivere una vita fin troppo normale, persa dentro i suoi sogni. E questa vita normale viene improvvisamente turbata dal ritorno di suo padre che non vedeva da 10 anni ormai. E poi c'è Ali, un ragazzo assolutamente nostrano sotto il profilo della lingua, ma come dire, magrebino e nordafricano nei tratti somatici, che diciamo così ha un suo rifugio dentro il mondo dei manga e del fumetto, di cui è oltre che un fruitore anche un operatore, un disegnatore. Si crea una sorta di seconda identità dietro questo alter ego che è appunto il manga, il suo supereroe. Ascoltiamo la clip. Sara, e tu che ci fai qui? Come che ci faccio? Sono io. E se mi concentro? Mi concentro davvero. Posso sparire dal mondo. Nessuno può farmi male. Mi affascina molto degli adolescenti, in realtà, la loro capacità di appassionarsi a delle cose, no? Magari fino al giorno prima non sapevano manco che esistesse quel cantante o quel determinato scrittore o chissà cos'altro, poi lo scoprono, ci si appassionano e appunto ci si tuffano dentro. E Ali mi sembrava molto adatto come personaggio, no? Da un lato lui è un ragazzo come molti altri, anche un po' sbruffone, anche un po' con tutta la sua compagnia di amici, ed è interiormente a questa vita interiore che lui vede espressa, che lui esprime attraverso questo fumetto, no? E allora, grazie ad Attilio Azzola, il film Diari, ve lo ricordo per il momento, a Milano e Monza, dopo i premi vinti a Cannes, a Bellinzona, nei festival del cinema giovanile di mezza Europa. Altre possibili distribuzioni nei prossimi giorni imminenti, Attilio, quali sono? Stiamo trattando per Torino e poi piano piano scenderemo giù a Bologna e sicuramente a Roma e in tutto il resto d'Italia, speriamo. Perfetto, in bocca al lupo e speriamo insomma che le cose vadano nel verso migliore. Ti ringrazio molto e a presto. E dall'Italia all'America con la nostra rubrica Trailer USA, che tutte le settimane ci racconta, ci fa assaporare le novità cinematografiche americane attraverso i suoni dei trailer. In questo caso veramente dobbiamo parlare di suoni, perché nel trailer del film che analizziamo oggi non c'è davvero una parola, quindi cercheremo di darvi suggestioni sonore e di raccontarvi un po' quel che si può della trama. E con noi come sempre Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora, oggi parliamo di catastrofi, di disaster movie. Analizziamo un film che si intitola 2012, l'anno in cui, secondo molte voci che animano i dibattiti su internet e sui blog, dovrebbe arrivare la fine del mondo. Questo lo dicevano i Maya. La data sarebbe 21 dicembre 2012. Siete autorizzati, ovviamente, a ogni tipo di scongiuri legittimi e illegittimi. Poteva un regista di genere come Roland Emmerich farsi sfuggire questa occasione? Speriamo non abbia ripetuto il disastro cinematografico di un film terribile sotto tutti i profili come 10.000 avanti Cristo. Micaela, parliamo subito della trama. Sì, Franco, allora, la storia è abbastanza complessa, nel senso che inizia nel 2009 e si protrae fino al giorno del cataclisma. La storia è questa: un certo professor West viene a conoscenza con un collega di alcune tempeste solari che hanno colpito il pianeta. Successivamente, nel 2010, viene convocato un G8 in Spagna, dove i potenti della Terra decidono di portare in salvo se stessi con delle astronavi, e qua poi si innesca un giallo. Poi arriva il 2012, arriva il cataclisma e si salvi chi può. In effetti, Michaela, a sentirlo così sembra ci siano tutti gli ingredienti già visti in film come The Day After Tomorrow oppure E venne il giorno. Ricordiamo il cast, formato da John Cusack, Amanda Pitt, Woody Harrelson e l'immancabile presidente nero, ormai l'epoca è quella, interpretato da Danny Glover. Ma passiamo a questo trailer. Come dicevamo, Michaela, un trailer solo sonoro. Ecco, sì, Franco, purtroppo di trailer ne abbiamo solo uno, perché il film uscirà nel luglio 2009, quindi è stato messo a disposizione solo un trailer, peraltro muto e opprimente, angosciante. Ve lo spiego un attimo. Nello spezzone si mostra un monaco tibetano che suona una campana cercando di dare forse una specie di avviso, ma il suo campanile sulla punta di un monte viene spazzato via da un'onda gigantesca. Ebbene, un colpo di gong costato circa 200 milioni di dollari, il colossal catastrofico mostra i muscoli già in questo breve filmato, veramente angosciante, lo potete ovviamente andare a vedere su internet. Io saluto Michaela Bellisario, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana. Ed eccoci alla quarta parte della Rosa Purpurea, che come di consueto vi racconta un po' quelle che sono le novità in DVD. Prima di collegarci con Claudio Pofi, che ci aiuterà con le sue recensioni, noi vogliamo focalizzare la nostra attenzione su un film che arriva nelle videoteche proprio in questi giorni, Il resto della notte, una delle sorprese della stagione italiana scorsa, presentato al Festival di Cannes, quello dove c'erano anche il divo e Gomorra. Il resto della notte ebbe un importante apprezzamento della critica, ora arriva appunto in DVD, distribuito da 01 con tanti contenuti speciali. È ospite in collegamento telefonico qui alla Rosa Purpurea Francesco Munzi, che saluto. Ciao Francesco. Ciao a tutti, eccomi. Benvenuto qui alla Rosa Purpurea per parlare del tuo lavoro in DVD. Cosa significa per te questa uscita, questa seconda vita del tuo film? Beh, appunto, innanzitutto, come dicevi tu, è una seconda vita. Io sono legato molto a questo mio secondo film perché è stato presentato per la prima volta nell'edizione di Cannes dell'anno scorso, un'edizione particolarmente importante e simbolica per il cinema italiano. Poi il mio film è uscito un po' dopo, quindi durante l'estate, quindi mi sembra un'ottima occasione per ripescarlo. Secondo, nei DVD in genere, ecco, c'è quella voce che per me, almeno quando compro io un DVD, è la cosa fondamentale, è quella degli extra, che in questo mio caso, Il resto della notte, ecco, è abbastanza ricca, perché c'è un making of più un diario di lavorazione e poi c'è un cortometraggio che è un po' l'inizio, diciamo, della mia carriera. È un film che affrontava ancora una volta, se vogliamo, ma sotto uno sguardo forse diverso, il tema della nostra convivenza quotidiana e inevitabile, direi, con chi arriva da fuori dall'Italia. È un film che parla un po' dei contrasti e delle contraddizioni del nostro paese in questo momento. Tra l'altro adesso c'è anche, insomma, è passato del tempo, perché quando uscì, a me quando fu presentato a Cannes, eravamo in toni molto accesi a livello politico sulla questione sicurezza, per cui sembrava quasi, molti ne hanno scritto, ma quasi come fosse un instant movie, un lavoro su cui ho lavorato molto tempo, c'è molta riflessione, quindi adesso che si sono un po' pagati mi sembra un momento giusto per riguardarlo. Mi sembra poi un tema comunque universale, il tema dell'integrazione, dell'ospitalità dell'altro. Francesco, ti chiedo, nel frattempo tu ti sarai rimesso al lavoro, immagino, con qualcosa di nuovo per il grande schermo? Sì, sto proprio scrivendo in questi giorni, sto proprio decidendo il soggetto su cui poi lavorerò. Adesso ho scritto due o tre idee, non ne parlo per scaramanzia, però ecco, sono dei giorni fortunati perché finalmente ho trovato la storia che si è imposta, insomma, che è emersa e si è distinta dalle altre che avevo sotto mano, quindi insomma, continuerò su quella. Francesco, per i registi della tua generazione è, diciamo, un bene vedere un momento così, diciamo, di rilancio anche di dell'innamoramento del pubblico per il cinema italiano, ma c'è magari il rischio anche che la gente poi si innamori solo dei film che vincono tanti premi, che vanno agli Oscar magari, eccetera, o potete beneficiarne anche voi? Ma diciamo che questi due film, per esempio, che ho citato prima di Cannes, sono stati un ottimo esempio, perché sono dei film comunque molto originali e molto particolari, oltre ad essere dei bei film, e che hanno avuto anche il successo del pubblico. Questo, ecco, però non mi sembra che questa sia diventata ancora una regola. In realtà, insomma, sia Sorrentino sia Garrone esistevano da tanto tempo e hanno fatto nel loro passato dei film all'altezza di questi qua, però appunto il grande pubblico non li conosceva. Quindi serve ancora molto lavoro. Io credo che anche un lavoro di scambio con il pubblico, insomma, per farsi conoscere. Io credo che esista una nuova generazione più o meno della mia età di registi, parlo di 7-8 nomi tra i 30 e i 40 anni, che hanno lavorato per molto tempo un po' nei sotterranei, un po' in cantine, stanno uscendo fuori. Ecco, Garrone e Sorrentino sono usciti fuori, adesso spero che escano fuori anche gli altri piano piano. Grazie allora a Francesco Munzi, nelle videoteche con Il resto della notte in DVD. Grazie a voi. E noi continuiamo ad occuparci di DVD, come abbiamo detto ci aspetta Claudio Pofi, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora Claudio, ti chiedo di stare un attimo lì a ascoltare con noi la terza traccia del DVD Game di questa settimana. Come dice? Non si vede. Cioè non parte, è questo il problema? No, l'ho riavvolto tutto. L'ho rimesso in play, ma vedo solo strisce. Ah, sì, così. Ecco. Non è che il suo videoregistratore è vecchio? No, l'ho appena comprato. Ma lei tende sempre ad addossare la colpa ai suoi clienti? No, niente affatto. Se avete indovinato di che film si tratta, direi che in questa terza traccia ci sono gli ingredienti necessari. La rosa purpurea, @radio24.it. E come sempre noi facciamo un salto indietro, andiamo a 7 giorni fa, andiamo ad ascoltare uno dei brani che avevamo seminato. Allora, come funziona? Avete una scala o... un trampolino? Credi che sia così facile che io ti consegni nelle mani il segreto del potere illimitato? No! Si trattava di Kung Fu Panda, film d'animazione che ha aperto trionfalmente la stagione cinematografica 2008-2009, è uscito alla fine di agosto, fu un'uscita molto fortunata e probabilmente lo sarà anche questa distribuzione in DVD. Hanno indovinato e hanno vinto Franco Bertazzoni di Padova e Fabrizio Midlars di Alzano Lombardo, provincia di Bergamo, riceveranno il DVD di Kung Fu Panda. Claudio. Sì, cosa dire, d'altra parte questo è un'opera in computer graphic animation, quindi assolutamente nulla da eccepire per quanto riguarda la qualità video. Abbiamo due strepitose tracce in Dolby Digital Multicanale, italiano e inglese, veramente notevoli. Tra l'altro ricordo che questo film è disponibile anche in Blu-ray alta definizione, con diversi extra presenti anche nella versione DVD, ma che nella versione Blu-ray sono disponibili in alta definizione. Rimaniamo in clima di grandi film, ma ci spostiamo decisamente di genere, dall'animazione all'horror, l'horror quello vero, quello degli anni 70, che aprì una strada ora piena di remake. Stiamo parlando di Non aprite quella porta di Tobe Hooper, ascoltiamo la clip. Devono essersi persi, non hanno neanche una torcia, accidenti. Se non tornano subito dovremo andare a cercarli. E se poi ci perdiamo anche noi? Sally, andiamo a quella stazione di servizio a chiedere aiuto. Franklin, dammi la torcia, vado a cercarli. Non c'è bisogno che venga anche tu. No, Sally, non andare. Non credo che sia una buona idea. Non credo che dovresti andare. Senti, suonerò il clacson un'ultima volta. Mi vuoi dare quella torcia, Franklin? Ho detto no. Ora provo a suonare il clacson... e aspettiamo un minuto e poi se non arrivano andiamo. Cult assoluto, distribuito da Sony Pictures per questo prodotto di Dall'Angelo Pictures, che racconta di questi 5 ragazzi che in Texas si perdono e cercano aiuto all'interno di una casa che è apparentemente disabitata, invece faranno il terribile incontro con una famiglia veramente folle che uccide chiunque si avvicini a questa casa. Il film ha fatto sicuramente epoca, non fosse altro per una questione di budget assolutamente bassissimo. I soldi tra l'altro finirono, il film venne realizzato materialmente in 32 giorni. Questa edizione esce restaurata, rimasterizzata, assolutamente splendida, sono 2 dischi con oltre 3 ore di extra per approfondire l'incredibile genesi della realizzazione del film. E allora noi chiudiamo con qualcosa di più natalizio, almeno negli atmosfere. Un film d'amore è stato uno dei colpi di fulmine della Rosa Purpurea lo scorso anno, nella scorsa stagione, un film che partì da Torino con il suo percorso in Italia e raccontava una storia d'amore inespressa, se vogliamo. Si intitola Once, la musica è una grande protagonista, ascoltiamo la clip. Sai che me ne vado a Londra? Ho deciso. Stavo pensando che prima di andarmene vorrei registrare qualche canzone. Un paio di quelle che hai sentito. Mi è piaciuto il modo in cui suonavi e cantavi, quindi. Insomma, ti piacerebbe? Vorresti farlo con me, come l'altra volta? Canterei e suonerei? Sì. Mi piacerebbe. Veramente? Bene, saresti nella mia band per un po'. Sì. Beh, questa è la prima cosa. È la prima cosa che ho sistemato. Ora devo solo organizzare tutto il resto. Distribuisce Warner Home Video questo notevole DVD che non ha alcun tipo di problema sotto il profilo audio-video. La storia di questi due musicisti, un ragazzo e una ragazza, che si incontrano, nasce un amore e un bellissimo disco che parla di questo loro amore. Ci sono degli extra interessanti perché sono disponibili due approfondimenti sulla lavorazione, ma anche sul profilo psicologico dei due personaggi principali, molto interessanti da vedere per scoprire che tra l'altro questo film non è stato realizzato in 35 mm, bensì con videocamere semiprofessionali. Un film da scoprire Once, quindi, che chiude le nostre ampie segnalazioni di questa settimana alla Rosa Purpurea. Grazie a Claudio Pofi, appuntamento fra 7 giorni. A presto, a risentirci. E noi con Claudio Pofi chiudiamo, come da tradizione, la nostra puntata della Rosa Purpurea. Grazie per averci seguito in quest'ora di cinema qui su Radio 24. Fra 7 giorni si torna con tantissimi, tantissimi film nelle sale. Li spezzeremo un po' perché avremo la puntata regolare sabato e domenica prossima, 20 e 21 dicembre, quella Rosa Purpurea. Poi una puntata speciale di Natale, a cui vi do già appuntamento per riepilogare un po' tutto il cinema da vedere dopo aver mangiato appunto il pranzo natalizio. Si ritornerà ancora nella puntata tradizionale il 27 dicembre e poi ancora puntata speciale di Capodanno. Insomma, staremo molto insieme nelle prossime feste. Noi ci risentiamo fra 7 giorni. Un saluto da Franco D'Assisi.